Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Albert teneva la testa fra le mani. Rialzò il viso rosso per la vergogna, bagnato di lacrime. «Ascoltatemi, amico mio», disse Beauchamp. «Vi racconterò tutto ciò che non ho voluto dirvi al mio ritorno da Giannina. Parlate. Ecco cosa è accaduto, Albert. Andai dal primo banchiere della città per prendere le mie informazioni. Alla prima parola che dissi sulla faccenda, prima ancora che fosse pronunciato il nome di vostro padre. «Ah», disse il banchiere, «indovino che cosa vi conduce». «Come? E perché?» «Perché sono giusto 15 giorni che sono stato interrogato sullo stesso argomento, da un banchiere di Parigi mio corrispondente. Il suo nome? Signor Danglars». «Lui!» gridò Albert. «Infatti, è proprio lui che da lungo tempo perseguita il mio povero padre con la sua odiosa gelosia. Lui, l'uomo che si pretende democratico, che non sa perdonare al conte di Morcerf di essere pari di Francia. E poi quella rottura di matrimonio senza darne una ragione. Informatevi, Albert. Non lasciatevi trasportare dall'ira. Informatevi, vi dico. E se la cosa è vera...» Sì, se la cosa è vera», gridò il giovane, «sconterà tutto ciò che ho sofferto». «Quando si prendono tali risoluzioni, Albert, bisogna metterle in atto subito. Volete andare dal signor Danglars? E via, andiamo!» Annunciato il nome di Albert al banchiere, questi, ricordando che cosa era accaduto il giorno prima, gli fece proibire l'ingresso, ma troppo tardi. Albert, avendo seguito il domestico, udì l'ordine dato e, forzando la porta, penetrò, seguito da Beauchamp, fin nello studio del banchiere. «Ma, signore!» gridò questi. «Non si è più padroni in casa propria di ricevere chi si vuole. È forse colpa mia se vostro padre è disonorato?» «Sì, miserabile!» gridò Morcerf. «È colpa vostra!» Danglars arretrò di un passo. «Colpa mia?» disse. «Ma siete pazzo! Conosco forse la storia greca, io. Ho forse viaggiato in quei paesi. Ho forse consigliato a vostro padre di vendere i castelli di Giannina, di tradire. Silenzio!» disse Albert con voce sorda. «No, direttamente non siete stato voi a sollevare questo scandalo e a causare questa disgrazia. Ma siete stato voi che li avete ipocritamente provocati. Io? Chi ha scritto a Giannina per chiedere informazioni su mio padre? Certamente che ho scritto. Quando si marita la propria figlia, mi pare che si possa prendere informazioni sulla famiglia del fidanzato. Non è soltanto un diritto, ma un dovere». «Avete scritto, signore», disse Albert, «conoscendo perfettamente la risposta che avreste ricevuto». «Io? Ah, vi giuro!» gridò Danglars, con una fiducia e una sicurezza che, forse più che dalla paura, erano dettate dalla pietà che in fondo provava per il disgraziato giovane. «Vi giuro che non avrei mai pensato a scrivere a Giannina. Conoscevo forse la catastrofe di Ali Pascià. Allora qualcuno vi ha spinto a scrivere, certamente. Chi è stato? Dite!» «È una cosa semplicissima. Parlavo del passato di vostro padre e dicevo che la fonte delle sue ricchezze era sempre rimasta avvolta nel mistero. La persona mi domandò dove vostro padre avesse fatto fortuna. Risposi: in Grecia. Allora mi disse: ebbene, scrivete a Giannina. E chi vi ha dato questo consiglio? Perbacco, il conte di Montecristo, vostro amico». Albert sentì il rossore salirgli alla fronte. Adesso gli tornavano in mente tante cose di cui si era dimenticato o non si era accorto. Montecristo sapeva tutto, perché aveva comprato la figlia di Ali Pascià. Ora, sapendo tutto, aveva incaricato Danglars di scrivere a Giannina. Conosciuta la risposta, aveva consentito al desiderio di Albert di essere presentato a Aidé. Una volta davanti a lei, aveva avviato il discorso sulla morte di Ali senza opporsi al racconto di Aidé, ma avendo senza dubbio dato alla donna, nelle poche parole che aveva pronunciato in greco, delle istruzioni, in modo che Morcerf, nel racconto, non riconoscesse suo padre. E poi? Non aveva pregato Albert di non pronunciare il nome di suo padre davanti ad Aidé? Infine aveva condotto Albert in Normandia nel momento in cui sapeva che sarebbe scoppiato il grave scandalo. Non c'era da dubitarne. Tutto ciò era calcolato. E Montecristo, senza dubbio, se la intendeva con i nemici di suo padre. Albert comunicò a Beauchamp tutte queste sue riflessioni. Avete ragione, disse questi. Il signor Danglars non entra in questa faccenda che per la parte materiale. È al conte di Montecristo che dovete chiedere spiegazioni. Bisogna non conoscere il conte di Montecristo per lasciarsi ingannare dall'espressione con la quale disse ad Ali: «Dammi le mie pistole con il calcio d'avorio». Ali portò la cassetta al padrone e questo esaminò le armi con quella cura naturale per l'uomo che sta per affidare la vita a un po' di ferro e piombo. Stava prendendo la mira sopra un pezzetto di tela che gli serviva da bersaglio quando, attraverso la porta rimasta aperta, vide una donna velata, in piedi, illuminata da una debole luce della stanza vicina. «Chi siete, signora?» disse il conte alla donna velata. La sconosciuta gettò uno sguardo intorno a sé, per assicurarsi che fossero soli. Poi, inchinandosi come se avesse voluto inginocchiarsi e congiungendo le mani con l'accento della disperazione, «Edmond!» disse. «Voi non ucciderete mio figlio!» Il conte fece un passo indietro, gettò un debole grido e lasciò cadere l'arma di mano. «Che nome avete pronunciato, signora di Morcerf?» «Il vostro!» gridò lei gettando via il velo. «Il vostro! Che solo io forse non ho dimenticato mai!» «Edmond, non è la signora di Morcerf che viene da voi. È Mercedes!» «Mercedes è morta, signore», disse Montecristo. «E io non conosco più nessuno che porti questo nome». «Mercedes vive, signore. Mercedes vi ricorda, poiché lei sola vi riconobbe quando vi vide, e prima di vedervi vi ha riconosciuto dalla sola voce, Edmond, dal solo accento della vostra voce. E da allora vi segue passo passo, vi sorveglia, vi teme, e non ha avuto bisogno di cercare la mano da cui è partito il colpo che ha abbattuto il signor di Morcerf». «Fernand, volete dire, signora?» riprese Montecristo con amara ironia. «Visto che stiamo ricordando i nostri nomi, ricordiamoli tutti». E Montecristo pronunciò il nome di Fernand con tale espressione d'odio che Mercedes sentì il brivido dello spavento correrle per tutto il corpo. «Vedete bene, Edmond, che non mi sono ingannata», gridò Mercedes, «e che ho ragione di dirvi: risparmiate mio figlio!» «E chi vi ha detto, signore, che odio vostro figlio?» «Nessuno, mio Dio!» «Ma una madre dotata di una doppia vista. Ho indovinato tutto. L'ho seguito stasera all'opera e nascosta in un palco ho visto ogni cosa». «Se avete visto tutto, signore, avrete notato che il figlio di Fernand mi ha insultato pubblicamente», disse Montecristo con una calma terribile. «Avete visto che mi avrebbe gettato il guanto in faccia se uno dei miei amici, Morrel, non gli avesse fermato il braccio». «Ascoltatemi, anche mio figlio ha capito e attribuisce a voi la disgrazia che ha colpito suo padre». «Signora», disse Montecristo, «vi sbagliate. Non si tratta di una disgrazia, ma di un castigo. Non sono io che perseguito il signore di Morcerf. È la provvidenza che lo punisce. E perché vi sostituite alla provvidenza? Gridò Mercedes. Perché ricordate ciò che essa ha dimenticato? Che importa a voi Edmond, di Giannina e del suo visir? Che torto ha fatto a voi Fernando Mondego, tradendo Alice Belen? E infatti, signora, rispose Montecristo, ciò non mi riguarda affatto. Avete ragione. E se ho giurato di vendicarmi non è del capitano francese, né del signor di Morcerf, bensì del pescatore Fernand, marito della catalana Mercedes. Ah, signore, gridò la contessa, quale terribile vendetta per un errore che le circostanze mi hanno fatto commettere, poiché la vera colpevole sono io, Edmond, e se dovete vendicarvi di qualcuno è di me che ho mancato, costretta dalla vostra assenza e dal mio isolamento. Ma perché sono stato assente? Perché siete rimasta sola? Gridò Montecristo. Perché foste arrestato, Edmond? Perché eravate in prigione? E perché fui arrestato? Perché ero in prigione? Lo ignoro, disse Mercedes. Sì, voi lo ignorate, signora. Almeno lo spero. Ebbene, ve lo dirò io. Fui arrestato e messo in prigione perché sotto il pergolato dell'osteria della Réserve, la vigilia stessa del giorno in cui dovevo sposarvi, un uomo di nome Danglars scrisse questa lettera che il pescatore Fernand si incaricò di portare alla posta personalmente. Montecristo, avvicinatosi allo scrittoio, aprì un cassetto dal quale estrasse un foglio che aveva perduto il primitivo colore e la cui scrittura aveva assunto quello della ruggine, e lo mise sotto gli occhi di Mercedes. E il risultato di questa lettera? Chiese Mercedes. Voi lo sapete, signora. Fu il mio arresto. Ciò però che non sapete è che sono stato per 14 anni a un quarto di lega da voi in una prigione segreta del castello d'If. Ciò che non sapete è che ogni giorno di quei 14 anni ho rinnovato il mio giuramento di vendetta fatto il primo giorno. Eppure ignoravo che aveste sposato Fernand, il mio delatore, e che mio padre fosse morto. È morto di fame. Giusto Dio, giusto Dio, gridò Mercedes vacillando. Ecco, ciò che io ho saputo nell'uscire di prigione 14 anni dopo esservi entrato. Ed ecco quello che mi ha indotto a giurare su Mercedes viva e su mio padre estinto di vendicarmi di Fernand. E mi vendico. La povera donna si prese la testa tra le mani, le gambe le si piegarono e cadde in ginocchio. «Perdonate, Edmond», disse, «perdonate per me, che vi amo ancora». Il conte si lanciò verso di lei e la rialzò. Allora, seduta su una sedia, poté attraverso le lacrime guardare il virile viso di Montecristo, al quale il dolore e l'odio imprimevano un aspetto minaccioso. «Che non schiacci questa razza maledetta», mormorò. «Che io disubbidisca a Dio, il quale mi ha strappato la morte per la loro punizione. È impossibile, signora, impossibile!» «Edmond», disse la povera madre tentando tutti i mezzi, «mio Dio, vedete, vi chiamo Edmond, perché voi non mi chiamate Mercedes?» «Mercedes», ripeté Montecristo. «Mercedes. Ebbene sì, voi avete ragione. Questo nome mi è dolce ancora da pronunciare. Ed ecco la prima volta dopo lunghi anni che risuona chiaro sulle mie labbra. Ah, Mercedes. Il vostro nome l'ho pronunciato con i sospiri della malinconia, con i gemiti del dolore, con la rabbia della disperazione. L'ho pronunciato intirizzito dal freddo, rattrappito sulla paglia della mia cella. L'ho pronunciato divorato dal caldo, rotolandomi sul pavimento del carcere. Mercedes, bisogna che io mi vendichi, perché ho sofferto per 14 anni. Per 14 anni ho pianto, ho maledetto. Ora io ve lo ripeto, Mercedes, bisogna che io mi vendichi. E il conte, temendo di cedere alle lacrime di colei che aveva tanto amato, chiamava in soccorso del suo odio i ricordi del passato. «Vendicatevi, Edmond», gridò la povera madre. «Ma vendicatevi sui colpevoli, vendicatevi su di lui, vendicatevi su di me, non su mio figlio». «È scritto nella Bibbia», disse Montecristo. «Le colpe dei padri ricadranno sui figli fino alla terza e quarta generazione. Dal momento che Dio disse questa parola al suo profeta, perché io dovrei essere migliore di Dio?» «Perché il tempo e l'eternità sono di Dio, due cose che sfuggono agli uomini». «Edmond», continuò Mercedes con le braccia tese verso il conte, «Edmond, da quando vi ho conosciuto ho adorato il vostro nome. Ho rispettato la vostra memoria. Edmond, amico mio, non costringetemi a cancellare questa immagine nobile e pura, incessantemente riflessa nello specchio del mio cuore. Edmond, se sapeste tutte le preghiere che ho rivolto per voi a Dio, fino a che vi ho sperato vivo, e dopo che vi ho creduto morto. Sì, morto, ahimè. Credevo il vostro cadavere sepolto nel fondo di qualche sinistra torre, il vostro corpo precipitato in qualcuno di quegli abissi in cui i carcerieri lasciano rotolare i morti, e piangevo. Che cosa potevo fare per voi, Edmond, se non pregare e piangere? Io pure, Edmond, credetemi, per quanto sia colpevole, oh sì, io pure ho sofferto molto». «Avete sentito morire vostro padre durante la vostra assenza?» gridò Montecristo, affondando le mani fra i capelli. «Avete visto la donna che amavate tendere la mano al vostro rivale mentre rantolavate in fondo ad un abisso? No, no!» interruppe Mercedes. «Ma ho visto colui che amavo, pronto a diventare l'uccisore di mio figlio!» Mercedes pronunciò quelle parole con un dolore così straziante, con accento così disperato, che dalla gola del conte sfuggì un singhiozzo. Il leone era domato, il vendicatore vinto. «Che cosa chiedete?» disse. «Che vostro figlio viva?» «Ebbene, vivrà». Oh. Gridò Mercedes afferrando la mano del conte e avvicinandola alle labbra. Oh, grazie, grazie, Edmond. Eccoti come ti ho sempre sognato, come ti ho sempre amato. Ah, ora posso dirlo. Tanto più, riprese Montecristo, che il povero Edmond non avrà molto tempo per essere amato da voi. Il morto sta per rientrare nella tomba. Il fantasma nella notte. Che cosa intendete dire, Edmond? Dico che, poiché l'ordinate, Mercedes, bisogna che muoia. Morire? E chi lo dice? Chi parla di morire? Da dove vi vengono simili idee di morte? Non penserete che oltraggiato pubblicamente, di fronte a tutto un teatro, in presenza dei vostri amici e di quelli di vostro figlio, provocato da un ragazzo che si vanterà del mio perdono come di una vittoria. Voi non penserete, dico, che sia disposto a vivere un solo momento. Ciò che ho amato di più dopo di voi, Mercedes, è me stesso. Vale a dire la mia dignità, quella forza che mi rendeva superiore agli altri uomini, quella forza che era la mia vita. Con una parola voi la spezzate. Io muoio. Ma questo duello non avrà luogo, Edmond, poiché voi perdonate. Avrà luogo, signora, disse solennemente Montecristo. Soltanto che sul terreno che doveva essere bagnato dal sangue di vostro figlio scorrerà il mio sangue. Mercedes mandò un grido e si lanciò verso Montecristo, ma ad un tratto si fermò. Edmond, disse, vi è un Dio al di sopra di noi, poiché voi vivete, poiché vi ho rivisto e confido in lui dal più profondo del cuore. Aspettando il suo aiuto, mi affido alla vostra parola. Voi avete detto che mio figlio vivrà. Vivrà, non è vero? Vivrà. Sì, signora, disse Montecristo, sorpreso che senza altra opposizione, senza altra meraviglia, Mercedes avesse accettato l'eroico sacrificio che le offriva. Mercedes tese la mano al conte. Edmond, disse mentre gli occhi le si bagnavano di lacrime, guardando colui al quale rivolgeva queste parole. Come è bello da parte vostra. Come è grande ciò che avete fatto. Quanto è sublime avere avuto pietà di una povera donna che si offriva a voi con tutte le probabilità contrarie alle sue speranze. Ahimè, sono invecchiata per i dispiaceri ancora più che per gli anni. Non posso più ricordare al mio Edmond con un sorriso, con uno sguardo, la Mercedes di un tempo che a lungo egli contemplava. Credetemi, Edmond, vi ho detto che anche io ho sofferto molto. Ve lo ripeto, è ben triste veder passare la vita senza ricordarsi di una sola gioia, senza conservare una sola speranza, anche se ciò può essere una prova che non tutto è finito. No, non tutto è finito. Lo sento da ciò che mi rimane ancora nel cuore. Oh, ve lo ripeto, Edmond è bello, è grande, è sublime perdonare come voi fate. Voi dite ciò, Mercedes? E che direste se sapeste tutta la grandezza del sacrificio che vi offro? Voi non potete farvi un'idea di ciò che perdo, perdendo la vita in questo momento. Mercedes guardò il conte esprimendo ad un tempo la meraviglia, l'ammirazione e la riconoscenza. Montecristo nascose la fronte nelle mani ardenti, come se non potesse più sostenere da sola il peso dei pensieri. Edmond, disse Mercedes, non ho che una parola da dirvi. Il conte sorrise amaramente. Edmond, continuò Mercedes, vedrete che, se la mia fronte è impallidita, se i miei occhi sono spenti, se la mia bellezza è perduta, se infine non assomiglio più alla Mercedes di una volta per i tratti del viso, vedrete che sono sempre la stessa nel cuore. Addio dunque, Edmond. Non ho più nulla da chiedere al cielo. Vi ho rivisto, nobile e grande, come nei tempi passati. Addio, Edmond. Addio e grazie. Il conte non rispose. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it